Salve a tutti! Oggi è 7 marzo 2014. Sono Ale Marin con la meditazione del mattino 365 vite in italiano. Vi ricordo che se volete inviare un commento oppure salutare qualcuno per il compleanno, forse alla mamma, all'amico speciale, che ne so, potete inviare un messaggio alla nostra email it@radio.com. Allora, apriamo la nostra Bibbia a Giudici 2:10. Quando tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri, dopo di essa sorse un'altra generazione che non conosceva l'Eterno nelle opere che egli aveva compiuto per Israele. Il personaggio d'oggi è l'altra generazione. La velocità con la quale ci dimentichiamo di Dio è assurda. Lui ci ama e noi appena abbiamo l'opportunità scappiamo, ci allontaniamo e ci nascondiamo. Ma non siamo stati noi primi ad avere questo tipo di atteggiamento. Dai tempi di Adamo ed Eva, l'essere umano assume lo stesso comportamento. Il fatto più strano è che ogni volta che ci allontaniamo da Dio, le cose finiscono male. Ma noi continuiamo a fare le stesse cose, continuiamo ad andare nella stessa direzione e ad ignorare tutto, in particolare ogni gesto d'amore che Dio esprime verso di noi. Sappiamo che la partita finirà male e comunque sia la ripetiamo ancora e ancora. Il nemico di Dio è anche il nostro. Non è creativo ma persistente. La tentazione non è nuova. Non è una strana opzione di peccato. Le tentazioni sono sempre le stesse. Lui non perde tempo trovando il modo di farti cadere in nuovi peccati, perché con i vecchi trucchi è sufficiente per averti nelle sue mani. A lui non interessa per niente la tua salvezza. L'unica cosa alla quale è interessato è veder piangere il cuore del nostro padre. E quando accade questo, le sue intenzioni sono quelle di farti cadere. E alla fine ci riesce. Tu non sei importante per lui. E così giochiamo a nascondino con Dio. E ci facciamo scoprire dal nemico, facendoci cadere ancora una volta nella stessa trappola, dicendoci che non è più possibile ritornare alle braccia del nostro amato padre. La cosa peggiore è che anche se sappiamo dell'amore di Dio, continuiamo a credere nelle bugie dell'ignoratore. La storia dell'altra generazione di Israele si trova nella Bibbia per darci sicurezza e la conferma che Dio ci ama. Non hanno importanza i nostri sbagli passati. Dio vuole che il nostro pentimento e la nostra confessione sia sincera per poter salvarci. Dobbiamo solo lavorare giorno dopo giorno con chi conosce a Giova e le sue opere. Il compito di salvezza non si può completare senza la nostra scelta di accettare Dio. Questa è l'unica forza dell'universo che permette al Creatore lavorare su di noi. Grazie a tutti per l'ascolto, a Leslie e all'equipo per la traduzione e a Sara Media per la cortesia. Ci troviamo domattina e che una grandissima benedizione sia su tutti quanti voi.